basta un'idea, a volte per caso capire cosa non va, se pesa questa realtà, oppure un momento che poi se ne va e lascia le cose a metà. Ad una domanda una sola risposta, non sempre succede così, a volte vogliamo di più, trovarci confusi tante volte però, perduti e senza di noi. Poi solo i regali del tempo, i ricordi di quando bambino, parole portate dal vento, di un uomo solo che si incammina per la sua strada e sentire il cuore e quelle parole avute e poi capire il vero come luce del sole. Non un'idea, non era un caso, è una storia nata così, sentita e vissuta per voi. Il gusto di un tempo non vola via, l'emozione è sempre con noi. La vita non sempre dà le risposte, qualcosa che vale di più. Ogni momento è così, il falso e il buio poi volano via, crescere ogni giorno si può. Le emozioni non sono nel vento, trovarle qui fra di noi, cercate tante volte nel tempo, io le ho avute solo con lei. Andare insieme e capire, a volte senza parole, da soli non è più tempo, ma insieme in libertà. Da soli non è più tempo, ma insieme in libertà. Da soli non è più tempo, ma insieme in libertà.